Questa settimana, a quanto sembra, i commentatori seri, intendendo per tali con le debite virgolette quelli che scrivono sulla grande stampa internazionale e parlano ai principali canali televisivi, i commentatori seri si sono resi conto di una verità che a noi poveretti era già balenata da un pezzo. Che la guerra, guarda un po', sta andando malissimo. E non sta andando malissimo soltanto dal punto di vista di chi si trova sotto i bombardamenti, che non è cosa che in sé preoccuperebbe nessuno. Va ancor peggio, a quel che sembra, da quello di chi i bombardamenti li programma e li esegue. Le possibilità di mettere le mani su Bin Laden, che probabilmente, se volete un parere del tutto personale, dall'Afghanistan se n'è andato da un pezzo, si fanno sempre più remote, e tutta la strategia esibita dagli Stati Uniti e dai loro alleati si rivela da un momento all'altro tragicamente inefficace. Il regime dei talebani non si è affatto dissolto al primo colpo di missile, ma continua a esercitare un saldo controllo su buona parte di quell'infelice paese. I bombardamenti non hanno modificato sensibilmente la situazione militare sul terreno, i mujahideen dell'Alleanza del Nord non sono entrati trionfalmente a Kabul, né d'altra parte, vista l'incasinatissima situazione politica, sembra che qualcuno auspichi che lo facciano. Le prospettive di mettere insieme in qualche modo un governo amico si fanno tra veti e controveti sempre più remote. L'opinione pubblica internazionale, e non soltanto quella dei paesi musulmani, comincia a reagire negativamente a una condotta di guerra che moltiplica le vittime civili senza risultati apprezzabili. E intanto siamo in novembre, si sta avvicinando l'inverno e la possibilità che le forze degli Stati Uniti all'alba del XXI secolo si trovino impantanate in quelle gelide vallate, come era già successo agli eserciti della Gran Bretagna nel XIX e a quelli dell'Unione Sovietica nel XX, si fa sempre più concreta. Insomma, quella che è stata definita la più grande alleanza militare che la storia ricordi sta correndo ostensibilmente il rischio di perdere la guerra contro uno dei paesi più poveri e smandrappati dell'intero pianeta. Sono cose, mi direte, che succedono da sempre. I più eruditi ricorderanno che gli antichi vedevano in qualsiasi manifestazione troppo compiaciuta della propria potenza, in ogni indebito convincimento di superiorità assoluta, un peccato. Una ibris, si diceva, che portava in se stessa le ragioni della nemesis, è come a dire che conteneva il presupposto del proprio rovesciamento. E anche senza condividere questa concezione, forse un po' troppo meccanica, del bene e del male, tutti sanno per esperienza come le vicende umane siano per propria natura imprevedibili e infide. Tuttavia che le cose potessero mettersi su questa via, Bush e i suoi generali potevano immaginarselo. Che con gli attacchi missilistici, per quanto mirati, e con i bombardamenti sia pure più intelligenti del mondo, non si faccia molta strada, avrebbe potuto insegnarglielo la doppia esperienza dell'aggressione all'Iraq nel 90 e di quella alla Serbia 9 anni dopo. In ambedue i casi l'attacco era stato sferrato nella prospettiva di un successo praticamente immediato e per così dire indolore, e in ambo i casi gli aggressori si sono trovati dal punto di vista militare e politico nei guai fino al collo. Mi permetterò anche di ricordare che in tutte e due le circostanze i risultati poi sono stati affatto deludenti. Visto che Saddam Hussein è tuttora al potere, il suo regime continua a essere considerato un grave pericolo sul piano internazionale, e mentre la stabilità politica nei Balcani, ancorché siano state spezzate le reni alla Serbia e Milosevic languisca in carcere all'Aia, è tutta al di là da venire. E allora, amici miei, delle due l'una. O siamo governati a livello planetario da perfetti imbecilli, che non azzeccano mai la più facile delle previsioni, o in qualche modo non ce la contano giusta. Non ce la contano giusta perché sapevano benissimo che le cose sarebbero andate più o meno come stanno andando, e della cattura di Bin Laden e della rimozione dei talebani in fondo non gliene interessa più che tanto. Dal punto di vista di chi sta al potere, la guerra presenta sempre tanti vantaggi politici, ideologici e materiali che certe volte non vale neanche la pena di vincerla. Rafforza il consenso, distoglie l'attenzione dalle contraddizioni interne, sposta risorse in una direzione gradita a chi governa. Non sarà un caso se nell'entourage di Bush non mancano i rappresentanti di quello che una volta si chiamava il complesso industriale militare. e tende comunque a diminuire il tasso di democrazia. A questi vantaggi, a questi succosi vantaggi, le classi dirigenti dell'Occidente non sembrano intenzionate a rinunciare. Che alla fin fine la distanza tra chi sta in alto e chi sta in basso sarà ancora più clamorosa, a Oriente come Occidente, è l'unico risultato che allo stato delle cose si possa ragionevolmente prevedere. Un homme que je connaissais pas est tombé, je ne sais pas pourquoi. C'était un coup d'épaule de trop.